Per le vacanze di Pasqua, la Toscana risulta essere la regione più cliccata del web, con oltre il 13% delle ricerche della penisola, mentre Firenze è la seconda fra le città più prenotate, preceduta da Roma. Per cui gli spostamenti ci saranno, secondo il vostro osservatorio, e naturalmente si cercheranno le belle città italiane. Che cos'altro può raccontarci? Che cosa succederà a Pasqua? Allora, sicuramente la Toscana è una delle regioni che va bene per ogni stagione, in particolare per questo periodo. Diciamo che offre una diversificazione territoriale molto forte ed è particolarmente scelta dal turismo internazionale. Firenze comunque viene sempre dopo Roma. Roma è la prima destinazione internazionale in Italia, quindi quella scelta in particolare da inglesi, tedeschi e francesi e anche spagnoli in seconda battuta. Quello che abbiamo osservato, noi ogni mese facciamo un monitoraggio sull'andamento dei prezzi alberghieri online, avendo a confronto diciamo tutte le più grosse agenzie di prenotazioni online, abbiamo rilevato un'apertura del mercato e quindi un aumento anche del prezzo medio per camera doppia notte nelle zone della Riviera, in particolare romagnola. Rimini è una delle città tra le 10 italiane più ricercate della stagione, ma anche comunque in previsione dell'estate, però sicuramente anche per Pasqua sarà una meta molto insomma molto tra quelle preferite insomma soprattutto dagli italiani. E in particolare abbiamo visto una ripresa per quanto riguarda invece la costa ligure. Al consumatore questo non fa piacere, però in realtà è un segno di buona salute, perché questo vuol dire che c'è una domanda che si sta riaprendo, una domanda che si sta rilanciando, e quindi quando in genere quando i prezzi aumentano è perché c'è più domanda, quindi si può fare sostanzialmente. Poi c'è sempre la sorpresa dell'ultimo minuto, quando magari non si riesce a vendere online a quel prezzo e quindi si deve abbassare improvvisamente le tariffe medie. Diciamo che è un mercato molto dinamico quello dell'online.